Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Non parleremo se non come aggiornamento della Grecia, anche se appunto continua il botta e risposta. A questo punto è intervenuto anche Tsipras, il leader greco, che ha detto il Fondo Monetario Internazionale ha responsabilità criminale nei confronti della situazione in cui versa la Grecia, e poi ha aggiunto: i creditori stanno chiedendo alla Grecia di accettare una soluzione che non solo non risolve il problema, ma riporterebbe l'economia greca in recessione. E Varoufakis, il suo ministro delle finanze, ha aggiunto: non vi sono margini per altre concessioni, le proposte arrivate ad Atene sono dure e disumane, e sostenendo che tocca adesso alla Germania fare il passo in avanti. Ormai, come dicevamo anche ieri, la partita alla faccia dell'Europa, che mi sembra che proprio in questi giorni, tra Grecia, migranti ed altro, il tema che abbiamo affrontato ieri, stia scomparendo come soggetto. Comunque ormai la partita è tutta Atene, Berlino, Berlino, Atene. Lo stesso Varoufakis dice adesso tocca alla Germania, e dice, chieda a un giornalista dello Spiegel Online, chieda a Frau Merkel se ci sarà un accordo questa settimana. Per cui insomma, poi ha insistito sempre Varoufakis: la Grecia si vincolerà alle misure proposte solo se l'Europa consentirà a una ristrutturazione del debito e al fatto che la Grecia possa fare investimenti e alla fine della crisi di liquidità, e quindi trasferimenti anche di liquidità alla Grecia. Per cui insomma, da questo punto di vista siamo alla situazione di ieri. E da questo punto di vista non ci sono nuovi sviluppi, se non il fatto che i mercati oggi sono più tranquilli: più 0,35% Milano, più 0,70% Parigi, più 0,60% Francoforte, meno 0,2% Londra, che non è coinvolta chiaramente in questa vicenda. Dow Jones più 0,46%, euro a quota 1,12. Lo spread è leggermente sceso dopo un'apertura a 160 punti, è sceso a 149 punti. La Spagna è a 156, il rendimento è salito al 2,3% dei nostri BTP a 10 anni, ha chiuso male la borsa d'Atene per il terzo giorno consecutivo, o terza seduta consecutiva per essere più precisi, meno 4,7%, con un nuovo record nei rendimenti dei titoli di Stato greci a 10 anni, al 12,4%. Pensate che il bot greco a 2 anni è al 29,2% di rendimento. Chiaramente insomma, è al massimo da quando è tornato negli scambi. Nel frattempo l'indice che misura la fiducia degli investitori tedeschi è crollato letteralmente nel mese è sceso dai 42 punti di maggio a 31 punti, siamo ai minimi dal novembre 2014, perché, secondo quanto riportano le agenzie della Germania, perché ci sono forti timori di un fallimento della Grecia. Angela Merkel oggi è tornata a parlare di Grecia, ha detto: in questi giorni mi concentro con tutte le mie forze per far sì che si trovi una soluzione fra la Grecia e le tre istituzioni e per far sì che sia possibile che la Grecia resti nell'euro. Mi ci dedico in questi giorni, ogni sforzo per una soluzione, ma la soluzione ancora non si trova. E come ricordano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, quelli che vengono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, la firma di oggi è del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. con Alessandro Plateroti. Ancora una giornata di tensione sulla Grecia, ancora una giornata di tensione sui mercati finanziari, ancora una giornata a chiedersi se e quando la Grecia firmerà un accordo o se e quando l'Europa dovrà affrontare un futuro senza la Grecia. In realtà la questione è molto ingarbugliata, ma sembra volgere in un'unica direzione, la ricerca necessaria di un accordo. Necessario perché non soltanto per evitare che ci ritroviamo in un'estate e poi in un anno ancora fatto di gravi tensioni finanziarie e di incertezze su quello che sarà il futuro dell'Europa, ma soprattutto perché nessuno sa come e quando far uscire la Grecia dall'euro nel caso in cui l'accordo non si facesse. Sembra paradossale, ma è proprio così. Grexit non è una certezza, come una certezza è il fatto che la Grecia debba uscire necessariamente dall'euro in caso dovesse andare in insolvenza sui suoi prestiti. Ma la domanda che si fanno tutti è questa: ma se la Grecia dovesse andare in default, chi mai potrebbe costringerla ad uscire dall'euro? E su questo non c'è una risposta. Sembra veramente paradossale, ma se si chiede all'Europa, alla BCE, al Fondo Monetario o a chiunque quale procedura si dovrà seguire, restano tutti muti. Spetta alla Commissione Europea? Spetta al Parlamento? Spetta alla BCE? Certamente non spetta alla Merkel o Hollande, ma sarebbe il caso di decidere una volta per tutti non solo qual è il percorso da seguire, ma quale sarà il futuro dell'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Altre notizie in breve, dicevamo della borsa che oggi è positiva come le altre borse europee, in particolar modo un po' di recupero sul Monte dei Paschi, più 4,40, meno sulle altre banche, ieri molto vendute. C'è UnipolSai che guadagna l'1,80%, UbiBanca che recupera un 1,1, UniCredit più 0,80, Mediobanca più 0,70, Pop Milano più 0,70, Pop Emilia Romagna più 0,40, Intesa più 0,20%. Bene invece Steam Microelectronics più 3, Azimut più 2,60, Campari più 2,40, Prismian più 2,1, Tods più 1,5, Jux più 1,20%. Tra chi perde, Autogrill meno 3,20, Finmeccanica meno 2,20, Telecom meno 1,30, Mediolanum meno 1%. E oggi parleremo anche di Telecom, parleremo del mercato dei capitali tra pochissimo e di quello che è emerso anche nell'assemblea dell'associazione che riunisce tutte le SPA, le società per azioni italiane. Parleremo anche della vicenda Telecom Italia, domani si scioglie il patto Telecom, ma soprattutto oggi di nuovo un piccolo botta risposta dal presidente di Telecom Italia e il viceministro, il tema della partecipazione, del ruolo che deve avere Telecom Italia nel progetto banda larga, banda ultra larga del governo, un po' di frizioni ci sono state, e anche dell'accordo oggi firmato dall'ICE e alla presenza anche del viceministro che ha la delega per l'internazionalizzazione, Carlo Calenda. Dicevo, scusatemi per la voce, l'accordo firmato dall'ICE sia con i notai italiani per aiutare gli investimenti esteri in Italia, sia per la presentazione del volume Doing Business in Italy, che serve anche in questo caso agli investitori esteri nel nostro paese. Le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda Grecia e Italia, abbiamo già detto, Grecia e Germania abbiamo già detto, sull'Italia i dati di oggi del mercato europeo dell'auto fanno notare e segnalano un aumento in generale in Europa dell'1,4%. Nei primi 5 mesi le vendite auto a livello europeo sono cresciute del 6,7% complessivamente. Dicevamo, l'Italia è tra i paesi maggiori come incremento di immatricolazioni auto, più 11%, quasi più 10,8%, bene anche la Spagna più 14%, Gran Bretagna più 2,4%, la Germania fa meno 6,7%, la Francia meno 3,5%, e poi un dato che farà discutere, la Grecia. La Grecia ha avuto un incremento delle immatricolazioni del 22%. Voi direte, ma allora sono in ginocchio o non sono in ginocchio i greci? In realtà la cosa è un po' diversa, perché da quello che si è capito, in Grecia, pur di non mettere i soldi in banca perché c'è il terrore che vengano bloccati i conti correnti se la situazione precipitasse definitivamente, si cerca di comprare qualunque bene, e l'automobile nuova, perché poi si presume che un'automobile possa essere comunque un bene di investimento, un bene rifugio, la puoi rivendere, certo che ci perdi, ma almeno la puoi rivendere, insomma. Questo giustificherebbe perché in Grecia c'è stato un aumento delle immatricolazioni così alto, che è parallelo anche alla fuga dagli sportelli. Il gruppo Fiat in Europa ha toccato la quota del 6,8%, più 9% a maggio e più 11,5% per il gruppo Fiat Chrysler nei primi 5 mesi del 2015. Gli altri gruppi: Volkswagen negativa del 2%, Peugeot Citroën meno 5, Renault più 5, Opel meno 5, BMW più 8%, Daimler più 11, Toyota meno 5%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. E allora partiamo dal primo tema, che riguarda il rapporto banche-imprese, ma in questo caso non solo banche-imprese, anche e soprattutto le altre forme di finanziamento delle imprese. Perché lo dico? Perché oggi l'ABI ha diffuso il dato sui crediti deteriorati delle banche italiane, quindi le sofferenze bancarie, a che punto sono arrivate. Sono arrivate a 191 miliardi ad aprile, contro i 189 miliardi di marzo. A livello record, il 10% di tutti gli impieghi bancari sono in sofferenza, cioè non torneranno più nelle casse della banca. Il dato è obiettivamente impressionante e giustifica in parte perché le banche siano molto restie a prestare i soldi. E poi ci sono tutte le regole di Basilea e quant'altro. Le sofferenze bancarie nette sono salite da 80,9 a 82 miliardi. A maggio è leggermente migliorato l'andamento dei finanziamenti, che restano negativi, cioè nel mese di maggio si sono stati prestati 1.400 miliardi di euro, meno 0,6% rispetto all'anno prima, con di nuovo un calo anche nei prestiti alle imprese. Detto questo, anche di questo si è parlato oggi all'assemblea biennale di Assonime, che si è svolta a Roma. C'era anche il ministro all'economia Piercarlo Padoan. Parliamone con il direttore generale della Assonime, appunto l'associazione delle società per azioni, le SPA italiane. Sono 440 imprese, di cui 110 sono quotate, perché lo dico per tutti, una può essere una SPA e non essere quotata, non è che se sei una società per azioni sei per forza quotata. 110 di queste sono quotate e pesano, rappresentano come peso il 90% della capitalizzazione di Piazza Affari. Il direttore generale si chiama Stefano Micossi, è in collegamento con noi. Buonasera, dottor Micossi. Buonasera, mi sentite bene? Molto bene, grazie. Allora, senta, tra le varie cose su cui si sono concentrati i vostri interventi oggi, ce ne sono alcune che forse sono più importanti per i nostri ascoltatori. Mi riferisco innanzitutto al finanziamento delle imprese durante questa crisi da cui stiamo lentamente uscendo, ma insomma il continuo al calo dei prestiti alle imprese. Come si supera, diciamo, questa impasse tra banche e imprese? Prima cosa da capire, anche perché cerca credito, è che siamo in un mondo molto diverso, un mondo nel quale il credito continuerà a essere disponibile per chi è solido patrimonialmente, a buona redditività, e invece sarà molto meno disponibile di prima per chi ha un patrimonio debole e una bassa redditività. Insomma, le imprese più rischiose faranno molto più fatica a ottenere il credito bancario. Questo anche quando la situazione si normalizzerà, perché questo è l'effetto delle nuove regole sul capitale di Basilea stabilite dopo la crisi finanziaria. E quindi questa è la prima cosa da capire. La seconda, che bisogna che troviamo il modo per aprire molto di più per le imprese i canali di finanziamento non bancario, cioè per aprire l'accesso delle imprese direttamente al mercato dei capitali, nella forma di debito e nella forma di equity, di capitale di rischio. Mm-hmm. L'Italia ha fatto molta sperimentazione e molti progressi nella direzione di aprire direttamente il mercato obbligazionario a imprese anche di minori dimensioni, ma stiamo sempre parlando di prestiti significativi. A fianco di questo si può immaginare strumenti di collocamento privato del debito, quello che si chiama private placement, o addirittura si può immaginare di dare più spazio a una cosa che sta già succedendo, che da noi è molto piccola, ma che sui mercati anglosassoni sta già diventando grande, e cioè l'accesso diretto a piattaforme elettroniche di prestito, si chiamano crowdfunding, nei quali sostanzialmente l'impresa chiede denaro a piattaforme elettroniche su cui sono presenti direttamente online molti investitori che possono essere interessati, in attesa di un rendimento più alto, a prestare a un'impresa che pare interessante. Sul crowdfunding abbiamo fatto intere puntate anche speciali, perché obiettivamente si finanziano grandi ma anche piccoli progetti attraverso la rete, si cerca chi vuole finanziare un progetto, se non ci chiede lo finanzi, chiaramente poi partecipa alla divisione degli utili, sperando che vi siano. Restiamo però sulla borsa, perché lei inizialmente ha detto stiamo cercando anche procedure semplificate di quotazione. Ora è noto che in Gran Bretagna, per esempio, ci sono diversi livelli di mercato, anche da noi si è tentato di farlo, ma insomma un conto è quotare un gruppo grosso con proiezioni internazionali e con una sua visibilità, altra cosa è quotare una piccola e media impresa. Allora, quando lei pensa a procedure semplificate, a che cosa si ispira, a che cosa fa riferimento? Noi abbiamo in mente esattamente il modello inglese a cui lei faceva riferimento. Diciamo, un mercato standard, che secondo noi deve essere un mercato basato solo sulle regole comuni europee, e un mercato premium, che le cui regole potrebbero avvicinarsi a quelle attuali, magari un po' più semplificate, della borsa italiana. In più bisogna anche mantenere l'idea che ci sia un mercato sostanzialmente con pochissime o senza regole, penso all'alternative investment market dell'inglese, un mercato, diciamo, una piattaforma di negoziazione nel quale sostanzialmente un mercato di intermediari, ma perché no, anche con accesso di investitori al dettaglio, nel quale tutti questi requisiti informativi sostanzialmente vengano sostituiti dall'intervento di un garante intermediario. Ma lei requisiti informativi intende dire l'obbligo delle trimestrali, cioè tutta quella parte molto pesante per una piccola impresa? Sì, ormai le regole, diciamo, i requisiti informativi che troppo frettolosamente possa, diciamo, la nostra Consob ha già esteso anche all'Alternative Investment Market all'italiana, che è partito, perché London Stock Exchange Group sta cercando di farlo decollare anche in Italia. I requisiti informativi della borsa principale sono semplicemente ingestibili per una piccola impresa, diciamo, con 5 milioni di fatturato. Bisogna convincersi che è un altro gioco, e lei sa benissimo che le imprese italiane sono sotto, per la maggioranza, per la soglia che ho citato, hanno poco capitale. Ripeto, se le imprese non si decidono a aprirsi al mercato e a patrimonializzarsi, tutti questi giochi poi non accadranno. Ma se si entra in quell'ordine di idee, allora c'è molto che si può fare perché questi canali si aprano. Quindi, se ho ben capito, resterebbe un mercato nel vostro progetto standard, premium, che è quello che noi commentiamo, il FTSE MIB, i primi titoli e comunque il mercato azionario complessivo, e poi invece una corsia, non dico preferenziale, ma più leggera per imprese più piccole. Esattamente. Che non abbia tutti questi oneri, questi obblighi di comunicazione trimestrale, che portano poi a costi interni molto alti, diciamocela tutta, amicossi, per cui insomma quello. E allora uno dice, ma io non mi quoto in borsa se poi per ottenere un po' di capitale devo avere dei costi così alti. Altra cosa, avere un garante che vigila, ma un mercato prevalentemente per i professionisti, se ho ben capito, immagino anche con poco flottante, poco liquido forse, o no? Immagino che la liquidità su questi mercati bisogna che la faccia uno sponsor, certo. Diciamo che ci sia però qualcuno che sostanzialmente è una piattaforma che permette alla piccola impresa di raccogliere capitali anche attraverso i professionisti. Quando potrebbe, per concludere, realizzarsi questa corsia preferenziale per le piccole imprese? Ma senta, la nostra idea è che questi sono cambiamenti regolamentari che potrebbero procedere rapidamente. Non sono sicuro che fino adesso, diciamo, il regolatore, il regolatore... La sento un po' scettico su Vegas e sulla Consob. No, non sono scettico su Vegas e sulla Consob. Non sono sicuro che siano entrati in quest'ordine di ragionamenti, in quest'ordine di idee. Cioè che spero che lo facciano. Ci vuole un pochino di coraggio qua. Il clima, diciamo, è stato molto pesante in questi anni. I mercati sono andati come sono andati. Molta gente ha perso molto denaro. L'idea che tutto questo si risolva con delle regole sempre più rigide e alzando il gradino regolamentare è sbagliata. I mercati, diciamo, che stanno tornando in vita in giro per il mondo, in realtà sono più leggeri, non più pesanti. Ci sono mille modi, soprattutto la trasparenza, soprattutto i buoni controlli successivi. Noi siamo grandi nel scrivere molte regole preventive e poi non controlli. Siamo debolucci nei controlli successivi. Se si stabilisse un clima di forti controlli successivi, forse potremmo avere diciamo un peso minore delle regole. Quindi lei dice la Consob non ha ancora pienamente capito quanto sarebbe importante avere un canale non deregolamentato nel senso di selvaggio, ma anche con tutti gli obblighi di compliance che hanno le società quotate sui listini principali, che reggono se tu sei una società di dimensioni grosse, e guardate che non ci sono solo le trimestrali, le comunicazioni, tutto un canale preferenziale in cui sostanzialmente la piccola impresa va e cerca un canale alternativo di finanziamento, perché poi da lì siamo partiti e qui chiudiamo. Giriamo volentieri la sua raccomandazione, la sua sensibilizzazione anche alla Consob. Grazie al direttore generale di Assonime, Stefano Micossi. Buonasera, grazie a voi. Guardate che vedo molti messaggi su questo. Allora, non abbiamo detto che questa sia l'unica soluzione, però partiamo dai dati di fatto, perché qua siamo tutti bravi a fare gli allenatori della nazionale di calcio. Dato di fatto è che le banche continuano a ridurre i prestiti alle imprese. Si è ridotta questa riduzione, ma continua ad esserci un segno meno. E per ritornare, e non torneremo probabilmente mai, come dicono per fortuna, ai livelli di credito pre-crisi. 1, 2, le sofferenze bancarie, dato di oggi, sono a 190 miliardi, per cui le banche dicono attenzione, abbiamo tanti di quei prestiti che non rivedremo più, che non possiamo permetterci altri margini. 3, le regole di Basilea, le regole europee sono ancora più stringenti, quindi vanno a penalizzare, lo so che è sbagliato, ma infatti l'Italia doveva far sentire la sua voce prima. Vanno a penalizzare chi fa un investimento, chi presta soldi a una piccola impresa senza un grosso rating è visibile, rispetto a chi investe in equity, in azioni o in titoli di Stato o addirittura anche in strumenti derivati. Quindi dalle banche immaginarsi che arriverà questo grande flusso di credito, certo che finanzieranno laddove, ed è giusto chiedere alle banche che si dotino di strumenti, a partire da chi deve valutare il merito di credito, migliori, perché spesso ci sono persone non così competenti. Però è inutile anche immaginare che le banche torneranno a fare quello che facevano prima con la stessa intensità. Bisogna pensare a strumenti alternativi. Nel mondo anglosassone esiste il crowdfunding, non capisco perché alcuni lo critichino, da un lato, ma esiste anche un mercato azionario che non è solo quello principale, dove tu, cosa vuol dire un regolatore? Vuol dire che i soggetti sono non numerosi, sono limitati, hai minori costi fissi nell'essere quotato in quello specifico mercato e riesci a raccogliere anche dei capitali. Poi è vero che le banche arrivano dopo delle volte, è vero anche quello che scrivono alcuni ascoltatori. Ho capito, ma da qualche parte una soluzione dobbiamo trovarla, perché se no restiamo con imprese sottocapitalizzate in affanno sui crediti, e non sto parlando delle imprese che hanno bisogno di pagare il fornitore o di pagare gli stipendi, parlo di imprese che hanno voglia di sviluppare reali e seri piani industriali. E a nostro avviso bisognerebbe avere anche un po' meno regolamentazione. L'appello alla Consob lo condivido in pieno, anche perché l'ultima relazione della Consob è una relazione molto politica, a rischio bolla, ma insomma, andate a fare i controlli veri sul grosse società, ma non imbrigliate il mercato all'inizio quando si parla di soggetti piccoli che hanno bisogno di nuovi e alternativi canali di finanziamento. Meteo, pubblicità e poi il resto della puntata. Quando caldo e sudore ti spossano, su con Sustenium Magnesio e Potassio e Menarini. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Bomi. Si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Focus Economia. Allora, in attesa di parlare con il presidente dell'ICE, andiamo con la borsa. Ripeto, oggi la borsa è poco mossa, nel senso che non ha avuto il calo di ieri. Anche la Grecia oggi ha lasciato meno notizie, più 0,25% a Milano, più 0,50% a Parigi, più 0,50% a Francoforte, invariata a Londra, più 0,40% il Dow Jones. Autogrill meno 2,60%, Finmeccanica meno 2,40%, Telecom Italia meno 1,40%, Mediolanum meno 1,1%. Il fronte opposto invece è rappresentato dal Monte dei Paschi di Siena, più 3,80%, da ST Microelectronics più 3%, Azimut più 2,5% e Campari più 2,20%, Unipolsai più 2% come Prismian, Tods più 1,60%, Jux più 1,30%, Exor più 1% come Terna. Lo 0,80% lo guadagna UbiBanca. Vorrei il commento, lo facciamo con il dottor Vincenzo Longo, ma dopo, perché voglio riprendere il collegamento con l'ICE, visto che si è conclusa la presentazione. E allora chiedo al dottor Longo un po' di pazienza, facciamo un collegamento alle 18, in una giornata che ha visto comunque come miglior titoli Bion più 17%, I Grandi Viaggi più 9,70%, Edes più 7,50%, Biancamano più 7%. In peggior titolo Poligrafici Editoriale meno 10,60, Fedon meno 8,5, Primi sui motori meno 6,70 come EMS. Euro su dollaro fermo a quota 1,12,30. Ripeto, l'incertezza sulla Grecia permane. Oggi addirittura Tsipras ha parlato di fondo monetario con responsabilità criminali. Però se la regia è d'accordo, allora nel chiedere appunto al dottor Longo un po' di pazienza ed arrivare alle 18, anticiperei il traffico, così poi riusciamo a mettere in collegamento anche il presidente dell'ICE. Allora, traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, sì, mi scrive un ascoltatore, guardi che alle 18 c'è il GR24, guardi, onestamente lo sappiamo e ce lo ricordiamo, intendevo dire alle 18.07 per la precisione. Però restiamo sul tema degli investimenti sia italiani all'estero, quindi l'export, ma anche gli investimenti esteri in Italia, che da sempre, poi lo ricorderemo, hanno una quota bassissima rispetto alla media europea. Perché? Perché oggi c'è stata la firma di un accordo anche importante con l'ICE, che è l'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione, con un ordine professionale. E allora vediamo di capire quale. Sì, parliamo degli ordini professionali del commercio con l'estero. Voi direte che cosa c'entra, anche perché questo programma non è mai stato morbido con gli ordini professionali. Riteniamo da sempre, insomma, che vadano cambiati per come sono fatti, che spesso siano anche un ostacolo e un mantenimento dello status quo. Ecco perché una volta tanto possiamo forse parlarne bene, visto che oggi l'ICE, quindi alla presenza del vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che ha la delega all'internazionalizzazione. L'ICE è l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle nostre imprese, ha firmato un accordo a livello governativo, una partnership governativa, la prima, con un ordine professionale, niente proprio di meno che i notai, uno di quelli su cui spesso si dirigono i nostri strali. In realtà questo deve servire a sostenere le imprese italiane nei mercati internazionali e ad aiutare le imprese straniere a investire in Italia. Voi direte, come fanno i notai ad aiutare le imprese italiane ad andare all'estero, le imprese straniere a investire in Italia? Beh, lo scopriamo subito con il presidente dell'ICE, appunto l'Agenzia per la Promozione all'Estero e Internazionalizzazione delle Imprese, Riccardo Monti. Buonasera. Buonasera a voi. Il notaio rappresenta proprio la figura, non dico quasi manzoniana, ma insomma quella più classica. Che cosa avete firmato come partnership governativa con i notai? Ma un accordo molto interessante, credo anche importante, perché sulla componente di attrazione investimenti, come sapete, una delle aree su cui l'Italia ha avuto negli ultimi tempi maggiore successo è l'attrazione di investimenti di tipo immobiliare. È ovvio che i notai sono i tutori della certezza del diritto su un'operazione immobiliare e quindi sono un partner interessante per chi vuole investire in Italia e che, come spesso avviene, è un po' spaventato dall'incertezza. Quindi sulla componente più strettamente immobiliare il notariato può dare un contributo molto forte di certezza rispetto a potenziale investitore che vuole fare un acquisto immobiliare. La seconda dimensione molto interessante è relativa al registro delle imprese online, che ha permesso all'Italia di fare un enorme salto nella classifica del doing business per quanto riguarda la facilità di mettere su un'attività economica, avendo di fatto portato anche l'Italia all'impresa in un giorno. Quindi l'Italia, grazie al registro imprese digitale, anche questo fatto insieme al sistema dei notai, è passato, diciamo, ha saltato 40 posizioni in questa famigerata classifica doing business che tutti gli operatori del mondo guardano. E quindi, se ho ben capito, intanto per gli investitori esteri ci sarà questa partnership per cui il notariato darà certezza all'investitore sulla parte immobiliare in primo luogo? Esattamente. E sulle imprese italiane che vanno all'estero invece? Ma ovviamente questo accordo con il notariato è molto più orientato agli investimenti stranieri verso l'Italia, sia nell'immobiliare sia per quando si crea una nuova iniziativa per la creazione di impresa. Quindi non è pensata in outgoing, ma è pensata in inbound, come si dice in gergo. Mentre voi oggi avete presentato anche la guida Doing Business in Italy, l'Investment Guide 2015, quindi è uno strumento che dovrebbe servire agli investitori stranieri anche qui per capire le tante e ahimè delle volte complicate forme giuridiche societarie italiane, ma non solo, tutta la normativa, la contrattualistica, tassazione, incentivi. È questo l'obiettivo? Sì, diciamo che tutti i paesi hanno degli strumenti di questo tipo per orientare investitori. L'Italia, che è nota ahimè per essere molto complicata, non aveva uno strumento del genere, che invece da oggi online abbiamo approfittato di questa grande conferenza internazionale in cui tutte le agenzie di attrazione e investimenti del mondo sono riunite con noi a Milano. Tra l'altro hanno nominato l'ICE vicepresidente dell'organizzazione, quindi diciamo vogliamo diventare un membro molto più attivo di questa organizzazione, e abbiamo presentato questo strumento, che è uno strumento a mio avviso molto utile e comunque certamente necessario. Ecco, su questo faccio notare che già noi attraiamo pochi investimenti, lei lo ricordava, lo stock di investimenti esteri in proporzione al PIL italiano nel 2013 era del 19,5%, meno della metà della media europea, che è 49%, ma la Francia per esempio ha il 40%, la Francia, che è considerata un paese chiuso, nazionalista, ha quasi il 40% di investimenti esteri in rapporto al PIL. La Gran Bretagna è nota per essere il paese forse più aperto in Europa di quelli grandi, ha il 63%, la Spagna ha il 52%, noi siamo meno della metà come valore degli investimenti esteri rispetto al PIL. E poi se si guarda la distribuzione, i due terzi degli investimenti si ferma in Lombardia, qualcosa arriva al Veneto e al Piemonte e all'Emilia, il centro Italia e il sud Italia non esistono nei processi di internazionalizzazione e di investimento. Monti, c'è qualche altra iniziativa che state cercando di svolgere, roadshow internazionali? Beh sì, stiamo lavorando all'interno del grande programma straordinario di promozione Made in Italy a un capitolo importante sulla parte investimenti. Già qualche risultato lo portiamo a casa. Nel 2014 abbiamo superato i 21 miliardi di investimenti in Camin, che comunque è una cifra che diciamo è molto più presentabile, pur essendo ancora molto bassa, come diceva lei, rispetto al recente passato. Siamo a un più 20%. Sì, erano 17 abbiamo... nel 2013, 22 nel 2014. Stiamo per esempio avendo anche buoni sconti su investimenti cosiddetti greenfield, cioè investimenti di nuove iniziative che sono i più pregiati, e sono cresciuti di circa il 31% nel 2014, quindi per risconti ce le abbiamo. Adesso andiamo in accelerazione creando questa rete internazionale di esperti del settore investimenti che verranno distribuiti nelle principali piazze finanziarie presso gli uffici dell'ICE, e poi si va avanti in maniera molto, molto rapida con tutte le leggi di semplificazione e di supporto agli investitori che sono state nei vari diciamo decreti messi a punto negli ultimi mesi, che piano piano vanno a regime. Devo dire che il Job Act sta riscontrando un grosso interesse, tutti gli operatori ci chiedono notizie di quali sono i miglioramenti in termini di vincoli sull'impiego operatori dei stranieri. Sì, piaccia o non piaccia, è un elemento che viene visto come maggiore semplificazione assolutamente e flessibilità. Sì. Ultimo aspetto, Monti, visto che ce l'ho in collegamento, il nostro export, voi avete dichiarato che puntate ad arrivare a 50 miliardi quest'anno, se ben ricordo, di più? Entro, no, 50 miliardi aggiuntivi entro fine 2016, non solo quest'anno. Entro fine 2016, grazie per avermi corretto. Come sta andando? Perché noi abbiamo raccontato in questi la settimana scorsa, per esempio, buone reazioni su tre settori chiave, calzaturiero, tessile, abbigliamento e alimentare, perché c'erano le assemblee delle associazioni di categoria. Con però questo grosso caveat, questo grosso anche dubbio sull'evoluzione della crisi ucraina e quindi dell'export verso la Russia, che pesa moltissimo in questi settori. Vorrei capire se ci sono altre aree che si stanno risvegliando, e visto che insomma l'euro obiettivamente a 1,12 aiuta. Sì, diciamo che ci sono mai come in questo caso delle forti tinte chiaroscure, fortissimo gli Stati Uniti dove siamo andati oltre il 35% di crescita nei primi quattro mesi dell'anno, forte contrazione ancora in Russia, alcuni paesi europei come la Germania e la Polonia che hanno ripreso bene, nel complesso tra i chiari e gli scuri vincono i chiari, diciamo così, e siamo intorno a più 4,5% primi mesi dell'anno, quindi devo dire che siamo perfettamente in linea con il target che siamo dati biennale di arrivare ai più 50 miliardi. Noi speriamo di chiudere il 2015 oltre i 500 miliardi di beni e servizi in uso all'estero, quindi una cifra molto importante. Direi che siamo abbastanza on track, se non ci saranno grandi traumi per raggiungere questo obiettivo. Allora, in bocca al lupo a tutte le imprese italiane esportatrici e sperando appunto che l'ICE possa essere sempre più utile. Noi siamo fiduciosi, quando vediamo che qualcuno si muove, la vecchia ICE non ci piaceva per nulla, la nuova mi sembra che stia dando strumenti, che poi quello che deve dare è strumenti, consulenza e possibilità, poi il resto lo deve fare l'imprenditore. Grazie al presidente dell'ICE, Riccardo Monti. Grazie a voi. E adesso andiamo verso il GR24, poi l'analisi di borsa, come spesso facciamo oggi l'analisi, abbiamo coinvolto per l'analisi un operatore del mercato dei capitali, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, GR24. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. Il segnale orario vi è offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo... State ascoltando un programma offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Focus Economia. 18 e 9 minuti. Allora, prima di avere il nostro ospite per l'ultima parte del programma, il presidente di Telecom Italia, Giuseppe Recchi, anche sulle varie indiscrezioni, articoli di giornali di una contrapposizione tra il governo e Telecom Italia sul piano banda ultra larga, con questo ruolo della Cassa Depositi e Prestiti di cui il governo vorrebbe cambiare i vertici, che alcuni immaginano essere la nuova IRI, vorrei, come annunciato, fare la seconda parte, diciamo, oggi della borsa, e dopo aver ricordato l'andamento dei titoli, il commento. Oggi il nostro ospite, il dottor Vincenzo Longo di AG Markets, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, i titoli li abbiamo già ricordati, Monte dei Paschi dopo il calo pesante di ieri, oggi il miglior titolo sul listino, più 3,80%. Diciamo che in generale la Grecia ha prodotto meno tensioni, ma la situazione è tutt'altro che risolta, anzi si è complicata ancora di più. Longo. Esattamente. C'è da dire che le tensioni permangono. Oggi il rimbalzino a cui abbiamo assistito sui mercati è per lo più tecnico, dopo i cali violenti delle ultime sedute. Già questa mattina i listini avevano preso una brutta piega poco dopo l'apertura, con gli indici più importanti in Europa che avevano aggiornato i minimi che non si vedevano da 4 mesi a questa parte. Poi c'è stata una reazione per lo più tecnica, dicevamo, e molti titoli che avevano perso terreno negli ultimi giorni, tra cui Monte dei Paschi, hanno reagito particolarmente bene. Monte dei Paschi è stato il titolo più brillante del nostro listino. In realtà qui ci sarebbero anche poi delle notizie che hanno, diciamo, permesso alla banca di Piazza San Imbeni di recuperare più dell'altro, diciamo, degli altri titoli, e soprattutto il fatto che si è concluso l'aumento di capitale, certo, nel migliore dei modi, rimane una 100%. Esattamente il 100%, i diritti inoptati sono letteralmente andati a ruba già nella seduta di ieri, sono conclusi ieri, e a questo punto la banca è a disposizione per cercare partnership sul mercato, e questo la rende, diciamo, in questo momento di appeal, una volta che si sono chiuse tutte le vicende legate un po' alla debolezza patrimoniale. Quindi ecco, è pronta per essere, diciamo, in qualche modo per entrare nella grande operazione di consolidamento del settore bancario italiano. Il cosiddetto risico bancario. Altro titolo, poi arriva Telecom. Lo faccio col presidente di Telecom Italia, che stiamo per mettere in collegamento. Finmeccanica, meno 2,40%. Abbiamo visto Boeing vincere un contratto con il governo britannico per 50 elicotteri, forse in negativo ne risente Finmeccanica. Esattamente, anche qui la notizia arriva proprio dagli Stati Uniti, di Boeing, che è, diciamo, sul fronte degli elicotteri, il principale competitor di Augusta Westland, una società controllata appunto da Finmeccanica, che produce elicotteri proprio in Gran Bretagna, si è aggiudicato un contratto milionario per 50 elicotteri al governo inglese, e Augusta Westland era tra le principali competitor, per aggiudicarsi la commessa, e invece è stata soffiata da Boeing, e quindi il titolo oggi ha risentito per lo più di questa notizia che riduce ovviamente le aspettative di ricavi futuri per Finmeccanica. Allora, i migliori e peggiori li abbiamo già dati, e nel ringraziare il dottor Longo ricordo che domani Telecom Italia, oggi ha perso l'1,43%, domani c'è il consiglio di amministrazione di Telco, oltre che partire il lancio in borsa della controllata Inuit. Il prezzo delle azioni del collocamento dovrebbe essere tra i 3,50 euro e i 3,75 euro, ma dicevo, c'è il consiglio di amministrazione della Telco, che è la società che controlla il gruppo Telecom Italia avendone il 22%, approverà il bilancio, prende atto che ci sono tutte le condizioni per dissolvere la holding, e quindi a Telefonica, gli spagnoli di Telefonica, verrà assegnato il 14,7% di Telecom, a Generali il 4,3%, e come effetto della scissione Intesa San Paolo e Mediobanca l'1,64% a testa, e poi nei giorni successivi si realizzerà il trasferimento dell'8% del capitale ordinario di Telecom Italia da Telefonica a Vivendi francesi, che diventeranno il primo socio del gruppo. Questo l'assetto societario, che però agli ascoltatori interessa poco. La cosa più importante in questo momento, in realtà il dossier più caldo, è il progetto del governo, dello sviluppo della banda larga, ultra larga, e anche le frizioni che perlomeno la stampa ha rilevato proprio con il gruppo Telecom Italia. Are you with me? Are you with me? E allora, al di là del consiglio di amministrazione della Telco, è cosa nota che in queste settimane, sui giornali soprattutto, ma anche tramite dichiarazioni, si è registrato, perlomeno a noi è sembrato registrare, una certa frizione tra piani del governo sulla banda larga e principale operatore che è il gruppo Telecom Italia. Riassumendo molto brevemente, il governo ha detto: bene, l'Europa chiede sulla banda larga entro il 2020 che il 50% della popolazione venga cablata, collegata, scusatemi, a una velocità di 100 megabyte per secondo e il 100% a 30 megabyte per secondo. Il governo ha detto: noi vogliamo arrivare nel 2020 con il piano digitale a addirittura un piano più ambizioso rispetto a quello europeo, cioè il 100% della popolazione a 30 megabyte per secondo e l'85% che possa arrivare a 100 megabyte al secondo. Ora dice: bene, qual è il problema? Che per far questo gli giornali hanno osservato una certa resistenza per il piano, diciamo, di banda ultralarga, come si chiama in gergo, da parte del gruppo Telecom Italia, che è sembrato dire: no, attenzione, può non essere conveniente per noi in molte aree, il rame può funzionare bene e può essere più che soddisfacente per l'utilizzo che si fa della rete in questo momento, in alcune aree, là dove non è profittevole fare tutto l'investimento per la banda larga. La controrisposta è stata: attenzione, le autostrade non si progettano per il traffico esistente ma per il traffico futuro, e quindi poi anche l'offerta genera una domanda. La battuta è stata: insomma, se avessimo costruito l'autostrada del sole pensando al traffico degli anni 60, avremmo fatto una strada, un'autostrada a una corsia per lato. E poi tutta la frizione, anche qui, che ci è sembrato rivelare, con il gruppo Enel, e ossia il governo ha detto: beh, se Telecom non ci vuole stare, useremo l'Enel e quindi le canalette dell'Enel per cablare il paese. La Cassa Depositi e Prestiti interessata anche a entrare nell'operazione Metro Web, ripeto, al di là del battibecco oggi tra il presidente di Enel, Giuseppe Recchi, che ha risposto a un Twitter del vice segretario del Palazzo Chigi, Raffaele Tiscar, che aveva detto: ma insomma, c'è una pubblicità in cui Telecom pubblicizza sulla MotoGP del Mugello la fibra ottica, ma sono gli stessi che dicevano che la fibra non serve, basta il rame. Queste sono battute di poco conto. Il problema è capire se veramente ci sia una diversità di vedute tra il principale operatore in Italia, Telecom Italia, e le intenzioni del governo sulle infrastrutture digitali. Ecco perché ringrazio, per averci raggiunto in collegamento, Giuseppe Recchi, che è presidente del gruppo Telecom Italia. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto sgombriamo il campo da polemiche. Ci può stare benissimo, come dicono i ragazzi, che il principale operatore privato, che deve rispondere ai suoi azionisti, deve fare utile, deve fare investimenti laddove profittevoli, la pensi in maniera diversa rispetto al governo, che dice: no, io devo occuparmi della digitalizzazione del paese e quindi non solo, diciamo, di quello che conviene al gruppo Telecom Italia. Dov'è che ci sono le maggiori diversità di vedute? Ma in realtà non ce ne sono, anzi mi permetta di obiettare al presupposto di litigio. Non stiamo litigando per niente, noi abbiamo un piano che è totalmente allineato con gli obiettivi del governo, e anzi chi alimenta queste speculazioni perde un po' di tempo da entrambe le parti. L'obiettivo quindi è portare la banda a velocità alta in tutte le case degli italiani. Il tema è come farlo, quindi stiamo cercando di spiegare qual è il modo migliore, più efficiente, sia dal punto di vista dei costi e dei tempi. Per questo noi non solo ci mettiamo l'impegno e la faccia, ma pure i soldi. Abbiamo fatto questo piano industriale presentato alla comunità finanziaria, già in corso, che prevede 10 miliardi di investimenti nei prossimi 3 anni, 3 miliardi e mezzo in quest'anno, che credo sia il più grande piano investimenti mai fatto da un privato, sicuramente di questi tempi, in Italia, in qualunque settore. Lei fa il riferimento alle autostrade. Si tratta di vedere dove prima serve la più alta velocità, e per fare cosa? Per spendere meno di quello che invece si spenderebbe andando a portare una velocità magari a infinita, 500 mega, 1 giga, ancora di più, in posti in cui in questo momento oggi non è immediatamente necessario. Allora, su questo sia noi che il governo stiamo cercando di sviluppare il piano industriale migliore, il famoso piano banda ultralarga, allora, a cui lei ha fatto riferimento. Il governo però, in quella che a noi è sembrata una forma di diciamo, la Suez, ha detto a suo tempo, vabbè, se Telecom ha tutte queste resistenze, c'è Enel, c'è Terna, possiamo usare le loro i canalette, come le chiamo io, e già c'è un obbligo di lasciare lo spazio per far passare la banda larga. In realtà poi recentemente lo stesso amministratore delegato del gruppo Telecom Italia, Patuano, ha detto che la collaborazione con l'Enel è una grande opportunità. Allora, molto prima di essere considerata una minaccia, l'ha detto nella vostra assemblea. Allora, questa Enel è un'opportunità? È sopravvalutata dal governo come sinergia? Assolutamente è un'opportunità, tra l'altro non è una novità la possibilità di utilizzare i cavi dotti o chiamiamole le infrastrutture disponibili per fare sinergia tra utility company e società di telecomunicazioni. Oggi l'Enel ha una condizione in più che rende questa opportunità ulteriormente vantaggiosa, che è proprio da quest'anno impegnata a cambiare i contatori digitali nelle case degli italiani, quindi 30 milioni di contatori. Per cui dice, già che io devo spendere per fare un intervento presso ciascuna casa, probabilmente la stessa squadra che fa quel lavoro lì potrebbe posare della fibra nella casa degli italiani per un costo marginale, sicuramente inferiore che se dovesse fare solo la posa della fibra. Possiamo vedere dove questo fa sinergia con società di telecomunicazioni che invece vogliono fare interventi unicamente per la fibra, e noi ovviamente siamo disponibili, i nostri team sono al lavoro in confronto con Enel per vedere dove questo si riesce a fare. C'è un unico punto, che le reti dell'elettricità e le reti delle telecomunicazioni sono diverse, cioè da casa nostra, da casa sua, da casa mia, il condotto che esce e va a un punto di smistamento, il cosiddetto armadio, ecco, per la rete elettrica è un armadio pieno di cavi elettrici che collega poi a monte a una centrale elettrica, nel nostro caso è pieno di apparati elettronici che servono a far funzionare la voce e il trasporto di dati che collegano poi una centrale telefonica. Allora bisognerà vedere dove ci sono effettivamente queste sinergie, quanto valgono e come tecnicamente si riescono a mettere in opera. Fatto questo lavoro, immagino che ci sia una fetta importante di questa infrastruttura che potrà, per le quali può essere abbassato il costo di sviluppo. Allora resti con noi, Presidente Recchi, c'è il traffico. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta con il presidente di Telecom Italia, Giuseppe Recchi. Dunque, mi scusi se insisto, Recchi, però insomma, alcune indicazioni, anticipazioni del che abbiamo visto sul disegno di legge del governo sembravano, per esempio, premiare gli operatori non integrati in maniera verticale, quelli orizzontali, mancava solo che fosse scritto Vodafone o Wind, c'eravamo. Ad altre parti abbiamo visto l'ipotesi di utilizzo della cassa depositi e prestiti, al di là di chi poi cosa succederà a questi vertici, in una versione diciamo come leva c'è chi ha visto un ingresso da CDP nell'operazione Metroweb, i bonus da dare a alcuni operatori a svantaggio di Telecom. Insomma, voi avete ha avuto la sensazione di subire in qualche modo una moral suasion, una pressione? Ma vede, oggi guardi, sono stato a un convegno questa mattina dove c'era anche il ministro Padoan che ha fatto un discorso molto chiaro e molto condivisibile, dove lui diceva in questo momento in cui il paese è concentrato nella ripresa, ecco, la metrica per un'economia che riprende sono gli investimenti che si fanno, e ha anche definito bene un argomento che noi condividiamo, quali sono i ruoli in gioco, ciascuno il suo. Allora, il ruolo dei governi, della politica è quello di definire le regole, le leggi affinché si costruisca un ambiente favorevole agli investimenti, affinché i privati possano investire. Ecco, dai privati noi possiamo mobilitare un sacco di risorse, quindi questo piano banda ultralarga è un piano molto intelligente perché divide il paese in aree tenendo conto della domanda effettiva. È chiaro che a Milano c'è una domanda superiore di un paese magari a più bassa densità di popolazione o di una città che appartiene a regioni più rurali rispetto che a regioni più industrializzate. Allora, è chiaro che in queste aree dove i privati a Milano vanno tutti perché mettere infrastruttura lì c'ha una possibilità di remunerare gli investimenti, tenga conto che appunto il guadagno poi a noi serve a fare ulteriori investimenti e a mantenere un'impresa che ha 53.000 persone che ci lavorano dentro, per cui ecco, di cattedrali nel deserto questi paesi ne ha viste abbastanza in passato e hanno creato sufficienti danni nelle aziende che ci sono sono cimentate. Allora, in quelle aree lì c'è domanda, per cui paradossalmente si può andare quasi senza regole, perché il mercato si autoregola. Pensi, apro una parentesi per gli ascoltatori, quando si parla di rete dobbiamo differenziare rete fissa e rete mobile. La rete mobile è una rete che non è regolata, tutti gli operatori hanno costruito la loro rete. Nella rete fissa invece, ecco, di questo stiamo parlando. Certo. Nelle aree più rurali, meno densamente abitate, ovviamente lì non c'è nessun imprenditore che può andare, perché non c'è un bacino sufficiente di clienti capaci di pagare per il servizio tale da remunerare un investimento che è ad alta intensità di capitale. E quindi come fanno i paesi? In prima l'Italia, che ha fatto un'opera straordinaria, danno dei sussidi via via superiori man mano che l'area è più, si definisce a fallimento di mercato, cioè certo, non è capace di rendere. Allora, nel sud, pensi, in 7 regioni del sud, il piano dell'Italia è stata di fare bandi di gara a cui poteva partecipare chiunque, per i quali si concorreva a un sussidio che in genere erano i fondi europei, che altrimenti si perdono. Sì. Sai che l'Italia è un campione mondiale non spendere soldi che l'Europa ci dà. Sono 2 miliardi, esatto. 2 miliardi. Allora, in queste regioni sono 7, Lazio, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, eccetera, eccetera, compresa la Sicilia, gli unici che si sono presentati siano stati noi, Telecom Italia, che ovviamente ha vinto i bandi, si è riusciti a mobilitare, le dico l'ultimo dove sono andato a tagliare il nastro, è in Calabria, dove grazie a un bando che prevede 60 milioni di contributi pubblici e 40 della Telecom, oltre poi agli apparati elettronici che noi mettiamo, si riesce a portare la banda ultra larga a 220 comuni, ecco, in una zona che non ha una vocazione industriale. Per concludere, Recchi, noi capiamo benissimo le esigenze di un gruppo privato, cioè voi dite, noi non siamo lo Stato, andiamo a investire dove c'è un ritorno, perché sennò gli azionisti ci chiedono cosa state facendo e lo Stato non può chiederci di fare l'IRI, ma temete che vi possa invece essere nel governo la tentazione di fare una nuova IRI attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, cioè dire adesso io creo una società, una holding che mi entra dentro la società e decido il piano, perché la politica ha altre esigenze comprensibili. Poi lei ricordava che ci sono i fondi europei, 2 miliardi, il piano complessivo di banda larga, se non ricordo male, ne vale altri 4,9 di miliardi. Per cui, da questo punto di vista, il timore che vi possa essere uno Stato troppo dirigista, interventista sul tema della banda ultralarga, della digitalizzazione del paese, voi lo vivete o no? No, guarda, io penso che due cose. Innanzitutto che i piani del governo e dei privati sono totalmente complementari. Riferimento all'IRI a cui fa lei è un riferimento totalmente anacronistico. Io penso che i paesi nel passato, il nostro paese in passato, l'IRI stessa ai tempi fu un'operazione virtuosa, perché permise di creare grandi aziende e quindi di far partecipare un'economia che usciva disastrata dalla guerra alla competizione nel mondo con delle aziende dotate di muscoli sufficienti. Ma poi nel mondo d'oggi gli stati non ragionano più così, nessuno stato oggi ha più risorse sufficienti per fare spending, per fare quello che si chiama la socializzazione della crescita senza tener conto della redditività. Oggi tutti gli stati competono per risorse, perché tutti gli stati hanno debiti pubblici tali da non permettere di fare in autonomia economia e sviluppi infrastrutturali. Per cui oggi gli stati la cosa migliore che possono fare è stimolare gli investimenti privati, nazionali, internazionali, quelli che sono. Grazie a Giuseppe Recchi, presidente di Telecom Italia. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Poi vedremo anche gli sviluppi della Cassa Depositi e Prestiti. Noi torniamo domani, come sempre, dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.